avanti. Ma va avanti. Un cane porco soffocante, incarnante, fango impantanante, imprudente, muoversi sulle mie vie. Hai gomme lisce, il tuo mezzo fuoriesce, tu mi risulti un pesce, fuori d'acqua le scie. D'aria d'Olanda, onde al mio passaggio concretizzo nubi, in più sconvolgo idioti tramite estro onesto. Tu sei guasto, proponi dogmi a nastro, come un papà tedesco, santo no, nazo. Hai lo pseudonimo, interviste alter omonimo, poi resti anonimo, non meno bianco dell'omino che nomino. Inganni la gente perdente, la mia fanbase autenticante, tant'è che ne fan parte da almeno tre lustri ispiranti. Cani, porci ed asini volanti, intendi costante. Non mi si dica un artista emergente, resto una scheggia impazzita, sana incosciente. Ma chi è? Non ha un volto, non ha un nome, non ha un SUV, MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Non ha speaker, non ha new era, non suona clue. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Non colleziona toys, joints per i b-boys. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Teso Queen, bunker studio, grossi di estense crew. Teso Land Express, suona col groove. Lui chi è? Del tutto intento e perché, per cui non sono vacca. Non sono un genio, incompreso alla major, quella è marra. Non sono un faro per la sfiga, per quello c'è fibra. Punta dell'iceberg dell'industria in un contratto a vita. Non sono quello che del rap ha fondato scuola. Di ogni persona che con me io sono la suola. Per questo contan su di me per fare passi avanti. In equilibrio adesso in corsa tra morti e viventi. Cry mister nessuno suona in un pugno stretto. Ti riempio i timpani mentre ti rompo il setto. È il mio setto denso, senso inverso, a quei due sputi spinti dentro un trafiletto scorretto. Metto la faccia innanzitutto, firmo subito sotto. Timbro d'Esolandia, garanzia del prodotto. L'accendo e sesso è fatto, l'Express risponde per me. Se solo chiedi lui chi è. Non ha un volto, non ha un nome, non ha un SUV, MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Non ha speaker, non ha new era, non suona clue. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Non colleziona toys, joints per i b-boys. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Teso Queen, bunker studio, grossi di estense crew. Teso Land Express, suona col groove. Lui chi è? Non ha un volto, non ha un nome, non ha un SUV, MC Crown, cane porco col groove. Non ha speaker, non ha new era, non suona clue. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Non colleziona toys, joints per i b-boys. MC Crown, cane porco col groove. Lui chi è? Teso Queen, bunker studio, grossi di estense crew. Teso Land Express, suona col groove. Lui chi è?